che tutti i giorni viene questa donna che mi fa, dice, dite un po', che per piacere me la fare sta cortesia di dirmi quello che è scritto lì sopra quel cartello, quello appiccicato là dietro. E faccio, dico, ma quante volte ve lo devo leggere e rileggere questo cartello? Dico, tutti i giorni me lo starà a chiedere di quel cartello. Dico, il cartello è sempre quello, è sempre lo stesso. C'è scritto fittasi monolocale, metri quadrati 35, angolo cottura, telefono ore pasti. Dico, se volete il numero del telefono ve lo scrivo su un pezzo di carta, così magari gli telefonate direttamente voi da casa vostra. Che mi dice, no, non importa, mi fa, dice, grazie per la cortesia, siete molto gentili, mi dice, grazie per la cortesia, ma 35 metri per me sono troppi pochi e troppo piccolo come appartamento, mi dice, grazie per la cortesia, siete molto gentili, mi dice, grazie per la cortesia, mi fa, dice, grazie per la cortesia. Che dicono, te pensare che questa donna sia alta tanto quanto, Dico, questa è proprio una bassetta nana. Dico, ma per quello che siete alta voi, che sarete alta la metà di quanto sono alto io, che manco io fossi un gigante io. Che dico, che in paragone di percentuale, 35 metri quadrati per voi, so come 70 metri quadrati per me. Che dico, io magari ce l'avessi un appartamento mio, di proprietà mia personale, di 70 metri quadrati. Che mi dice, ma mi dica un po', già che ci si trova, che per favore me la fa st'altra cortesia di leggere quello che è scritto su quegli altri cartelli, su quello verde pisello, su quello giallo, su quello brillate dietro. Che dico, ma pure quelli già ve l'ho letto. Dico, tutti i giorni me lo starò a chiedere di questo, di quell'altro cartello. Sto sempre a leggere i cartelli per voi. Dico, quelli là già ve l'ho letti. Dico, li conoscerei a memoria, li conoscerei meglio di me. Poi, per quello che ho capito io, quei cartelli lì manco vanno bene per voi. Dico, quelli so vendesi. No, fittasi, vendesi. Dico, voi cercate una casa a pigione, in affitto. Dico, quelli so vendesi, mica vanno bene. Ah, mi dice, allora, grazie per la cortesia, siete molto gentili. Mi dice, grazie per la cortesia. Mi fa, dice, grazie per la cortesia. Dice, grazie per la cortesia. Dico che tutti i giorni viene questa donna. Ti chiede se per favore gli può leggere un cartello appiccicato sul muro, una lettera, un articolo su un giornale, una cartolina, una bolletta del gas, della luce, della monnezza. Ti dice che non gliela fa leggere perché si è dimenticato gli occhiali, perché è troppo bassetta, perché è soccalata le cataratte. Dico, ma la verità è vera, dico, che voi non siete capaci a leggere e scrivere. Dico, voi siete analfabeta. Dico, certo che trovare una persona che al giorno d'oggi odierno non è capace a leggere e scrivere che è analfabeta è proprio una cosa rara e impossibile, E di che voi siete una cosa rara, una rarità, una specie di pezzo d'antiquariato, un mobile di Luigi XV-XVI, quella roba là. Dico, se vi trovo qualche americano ricco, qualche mezzo Onassis, qualche Rockefeller, sta gente qua che va cercando le antichità in giro per il mondo, dico, ve se ruba subito, ve se portano in America la gente come voi, ve mettono nei musei gente analfabeta, sai, in America mica esistono più da secoli gli analfabeti, ve mettono sotto una bella vetrina, che poi dico, voi siete pure bassetta, dico, se fate pure la figura vostra sotto vetro, ve presentano gli americani ricchi, dicono, questa è una bassetta italiana originale e realmente analfabeta. Dico, vi mettono insieme ai passi etruschi, vi mettono all'asta, poi vi si comprano. Altro che monolocale 35 metri quadrati, vi portano a vivere nei musei. Che trovare una persona che al giorno d'oggi non è capace a leggere e scrivere è proprio una cosa rara, impossibile. In tempo di guerra no, in tempo di guerra tanta gente invece non sapevano leggere e scrivere. In tempo di guerra la gente si doveva sempre trovare qualcheduno che gli leggeva due righe su un giornale, un manifesto su un muro, una lettera, una cartolina. Per esempio, in tempo di guerra, la seconda guerra mondiale, mio nonno paterno, che si chiamava Giulio, il sor Giulio, lavorava a Roma in un cinema, si chiamava Cinema Iris, questo stava in fondo a Via Nomentana, a Porta Pia, esiste ancora questo cinema, ora si chiama Cinema Gioiello. Dico, mio nonno, lui sì che ci andava sempre la gente da lui, perché lui era buono a leggere e scrivere, quindi leggeva per questo e per quell'altro. Tant'è vero che quel giorno lì, dico la bassetta, dico, stare a sentire, quel giorno lì era il 25 marzo 1944, quando la gente indietro al cinema Iris, odierno Cinema Gioiello, in fondo a Via Nomentana, a Porta Pia, qua a Roma, andarono lì da mio nonno e gli dissero, sor Giulio, che per favore ce la fate la cortesia di leggere quello che è scritto su questo giornale, che pare che sia un comunicato dei tedeschi che dicono che è una cosa importante. Mio nonno allora prese il giornale e disse, sul giornale c'è scritto che il 23 marzo 1944, ovvero sia l'altro ieri, c'è stato un attacco con lancio di bomba contro una colonna di polizia tedesca in transito per via Rasella. In seguito all'attentato, 32 elementi della polizia tedesca sono morti e molti altri feriti. Il comando tedesco ha perciò ordinato che per ogni soldato tedesco morto, 10 comunisti badogliani saranno fucilati. Punto. Questo ordine è già stato eseguito. Dica la bassetta, dico, lo vedete che questa è una storia strana? Lo vedete pure voi che sul giornale e sul manifesto c'è scritto che i 10 comunisti badogliani per ogni soldato tedesco morto saranno fucilati? E poi alla riga presso c'è scritto che l'ordine è già stato eseguito. E dico, ma porca miseria, dico la grammatica, i verbi, la sintassi, l'italiano. Dico, ma se l'ordine è già stato eseguito, questi non è che saranno fucilati. Dico, questi già sono stati fucilati. Dica la bassetta, dico, questa è una storia strana, effettivamente. È una storia che tutti, sembra che tutti la conoscono, che tutti la conoscano a memoria. Ma quando te la vanno a raccontare, sta storia, questa qui della guerra a Roma, quando te la raccontano, a raccontartela tutta ci mettono un minuto. Dico, ma se uno la dovrebbe raccontare tutta per filo e per segno, ci vorrebbe una settimana, altro che un minuto. Dico la bassetta, dico, i libri li dovrebbero scrivere, di storia, alti così, dico, più alti di voi che siete bassetta. Se volete, dico la bassetta, io la storia la conosco, me l'hanno imparata a me, io ve la posso pure raccontare. Magari ve la racconto in forma breve, in un minuto, poi magari se ci avete tempo ve la racconto quella lunga, quella che dura una settimana. Dico, beh, detta in breve più o meno la storia è così. 23 marzo 1944, alle 4 del pomeriggio a Roma, in una via che si chiama Via Rasella, scoppia la bomba che mettono i partigiani. In seguito all'esplosione di questa bomba muoiono 33, non 32 tedeschi. E il comando tedesco allora ordina che il giorno appresso verranno ammazzate per rappresaglia 335 persone. E questo è conosciuto come eccidio alle fosse ardeatine. Punto. Fine della storia. Dica la bassetta, dico, lo vedete? Raccontare così a sta maniera la storia, ma neanche un minuto. Dico, questa dura 10 secondi. Dico, ma se uno la dovrebbe raccontare tutta per filo e per segno? Dico, questa dura una settimana, questa storia. Se volete, dico, la bassetta, io la conosco, me l'hanno imparata, io ve la posso pure raccontare. Dico, tanto voi di tempo ce ne avete assai, tutti i giorni stare qui a rompere anima con sti cartelli. E mi dice, ma per forza, mi dice, io cerco casa, mi dice, cerco casa. Beh, dico, se cercare casa, che ci avete tempo da perdere, ci avete pure un po' di tempo per ascoltare la storia mia. Dico, che come verranno imparata a me, come la conosco io sta storia? Non è che inizia il 23 marzo, o il 22, o la settimana prima, o il mese precedente, o l'anno prima ancora. Dico, come la conosco io, come verranno imparata a me la storia? Inizia a Roma alla fine dell'Ottocento, quando Roma diventa Roma Capitale. E quando Roma diventa Roma Capitale, la gente di Torino e Firenze che lavorava nei ministeri e uffici pubblici statali vengono a lavorare tutti quanti a Roma. Allora bisogna pure costruirli, sti uffici, sti ministeri, e pure le case per questi qua che mica tornavano a dormire a casa loro a Genova, Torino, Milano e via discorrendo. Così allora a Roma arriva tutta quanta la gente della Bassa Italia, dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla Puglia, dalla Basilicata, dal Molise, dall'Abruzzo. Tutta quanta gente che arrivano a Roma e si mettono a fare i costruttori, a costruire, insomma, come muratori, manovali nei cantieri, piastrellisti, imbianchini, carpentieri. Insomma, tutta gente che arrivano a Roma per costruire Roma Capitale, perché c'è lavoro per tutti. E allora bisogna pure avere il materiale di costruzione, i mattoni, la pozzolana, la carza, il cemento. Così intorno a Roma si scavano 170 cave con più di 3.000 persone che ci lavoravano dentro. Che poi più che dentro questi lavoravano proprio sottoterra per costruire questa bella città di Roma che piano piano cresceva sopra. Beh, dico, tanta gente a quel tempo lì, alla fine dell'Ottocento, arrivò perfino dai castelli romani, sti posti come Marino, Grottaferrata, Velletri, Genzano, Albano, che a quel tempo lì, che alla fine dell'Ottocento, i castelli romani erano proprio la barbarie, tutti quanti i contadini, braccianti, ignoranti, che non sapevano leggere e scrivere. Tant'è vero che qualcuno racconta che un bel giorno, niente meno che il Papa, Sua Santità, arrivò ai castelli romani, arrivò fino a Genzano. Quando arrivò a Genzano, il Papa con la carrozza, i tiri, i cavalli, i pennacchi in testa, si aspettava di trovare i genzanesi in piazza che festeggiavano l'arrivo di Sua Santità. Invece li trovò tutti in piazza, con le zappe, con le vanghe, con i rastrelli in mano, urlavano, strillavano, bestemmiavano, sputavano per terra. Che il Papa disse, oh, a genzanesi, ma che volete? E Santità, pagnotte grosse. Per via che le pagnotte, i panettieri, i fornari che stavano a Genzano, le pagnotte le facevano sempre più piccole, mentre che il prezzo, cada una pagnotta, era rimasto sempre lo stesso. Beh, dico, questi qua i genzanesi erano ignoranti, ma mica scemi, era gente arrabbiata. Che però le prime idee della democrazia, del socialismo, della lotta di classe, dei diritti umani, le vengono a conoscere solamente quando sti genzanesi arrivano a Roma per costruire pure loro Roma Capitale. Dico, beh, un altro che andava avanti e indietro dai castelli romani era un ebreo. Alla fine dell'Ottocento questo si chiamava Vitale. Vitale era stato in Inghilterra. In Inghilterra Vitale aveva imparato a fare i merletti alla maniera inglese. Così che appena tornato a Roma, Vitale aveva aperto un bel negozio sotto casa sua, al ghetto, vendeva i merletti. Vitale però si andava per le campagne romane tutti i giorni a imparare alle donne delle campagne romane come si cuciono sti merletti alla maniera inglese. Poi dopo qualche settimana ripassava, ricomprava i merletti fatti nelle campagne romane e li andava a vendere al negozio suo, al centro di Roma, al ghetto, come merletti inglesi originali di importazione appena arrivati dall'Inghilterra. Poi dico io, tanti ebrei che prima stavano al centro di Roma, piano piano si erano dovuti spostare, no? Perché il centro di Roma, il ghetto troppo piccolo, era diventato per tutti quanti gli ebrei. Tanti, per esempio, tanti ebrei andarono a vivere in un posto che si chiama Testaccio. Per chi non lo conosce, Testaccio è un quartiere popolare di Roma, che lo costruiscono proprio alla fine dell'Ottocento, al tempo di Roma Capitale. Costruito che doveva essere un quartiere popolare, ma fatto proprio ad opera d'arte, fatto per bene. Solo che Testaccio pure lo costruiscono oggi, lo costruiscono domani, Ma poi alla fine d'estate non lo finisce più di costruire nessuno, le case rimangono tutte mezze mezze. Dico, ma però pure a quel tempo la gente, quelli che cercavano casa, andavano a vivere dove trovavano, non è che stavano tanto a sindacare se la casa era costruita o non era costruita del tutto, l'importante è che c'era un letto, un tetto, un pavimento. Tant'è vero che a quel tempo lì, dico Rabassetta, alla fine dell'Ottocento, nel quartiere popolare di Testaccio, si viveva tanta gente che dentro le case si vivevano fino a 7, 8, 10 persone per ogni camera. Testaccio era proprio l'India, le porte di Roma, la gente ci dormiva in piedi dentro le camere. Dico, beh, dica Rabassetta, dall'altra parte del fiume Tevere rispetto a Testaccio c'è un posto famoso che si chiama Trastevere. Trestevere lo chiamano i romani, Trestevere. Che però Trestevere da mo' che esiste, mica lo fanno nell'Ottocento. Tanto è vero che ancora oggi quando uno dice quello di Trastevere, lo dice non per dire che abita a Trastevere, ma per dire che quello è proprio romano vero di Roma, di Trastevere. Anche se poi i romani di Roma a Trastevere non ci abitano più da un secolo. Non ci abitano più i romani di Roma a Trastevere, dal tempo in cui le case cominciarono a costare tanto, dalla fine dell'Ottocento. Ma fino alla fine dell'Ottocento Trastevere era tutto zozzo, puzzolente, pieno di sorci e di bagarozzi, che se uno la sera a Trastevere, dentro casa sua, per terra, appoggiata per terra, ci metteva una cunculina, una bacinella piena d'acqua, la mattina presto la trovavi nera, piena di bagarozzi, di scarafaggi. E questa era Roma alla fine dell'Ottocento, zozza, puzzolente, monnezza per le strade, scarafaggi, bagarozzi, insomma, zozzeria, monnezza da tutte le parti. Ma poi diventa Roma capitale. E quindi deve diventare una bella città, si deve ingrandire, fare i palazzi alla maniera europea, internazionale, mondiale. Così allora la città si ingrandisce, si costruisce strada dopo strada, casa dopo casa, piazza dopo piazza, palazzo dopo palazzo, la città diventa sempre più grande. Negli anni 10 Roma si è raddoppiata come grandezza e come popolazione. Negli anni 20 poi esistono quartieri che prima la gente a Roma si risognavano. Zone come per esempio San Lorenzo. San Lorenzo è un quartiere popolare. Lo costruiscono a Roma, lo costruiscono vicino al Camposanto, al Verano, il cimitero di Roma. Lo vanno a costruire tra due stazioni, la stazione Tiburtina da una parte e la stazione Termini da quell'altra. E in mezzo si costruiscono sto quartiere dove vanno a vivere tutti i ferrovieri che difatti andavano a lavorare un po' da una parte e un po' da quell'altra. Dico, beh, oh, dica Rabassetta, quel giorno lì era il 1923, quando a Roma, al cimitero, dietro San Lorenzo, ci fanno la cerimonia per la morte dell'eroe di guerra Enrico Toti, quello che lanciò le stampelle in trincea. Dico, beh, allora arriva tutta quanta la gente, lì al Verano, attraversano San Lorenzo, e in mezzo alla gente che arriva da tutta Roma, con la banda, con i tamburi, con le bandiere, per la cerimonia in pompa magna per la morte di Enrico Toti, in mezzo a tutta la gente arrivano pure i fascisti. Quei fascisti... bestemmie, sputazze, bastonate, manganellate, a un certo punto uno prende, gli scappa, tira fuori una pistola, spara al fascista. I fascisti allora fanno, sti comunisti di San Lorenzo, mo veniamo su a San Lorenzo, la spianamo San Lorenzo. I fascisti non fanno in tempo a entrare per le strade strette di San Lorenzo, che a San Lorenzo perfino i ragazzini avevano staccato le pietre dalla pavimentazione stradale, i San Pietrini, e coi secchi, con le ceste, la volevano portare in terrazza, che quando i fascisti entrarono per le strade strette di San Lorenzo, zitti zitti, neri neri, in testa loro dai detti fu una pioggia dei sassi, una tempesta dei San Pietrini, che c'era una donna, questa si era messa in finestra da casa sua in via dei Sardi, lì a San Lorenzo, con un fucile del marito suo, rimanenza della prima grande guerra mondiale. Quando sta donna col fucile in braccio vedeva passare i fascisti lungo il muro che stava davanti a casa sua, beh, questa non era un cecchino, uno lo piava, 10 ne mancava, ma se ne era lasciato appiccicato più di uno dei fascisti lì davanti a casa sua. Ma negli anni 30 Roma diventa la capitale dell'impero, e così allora Benito Mussolini, il duce del fascismo, pensa bene che nella capitale dell'impero ci possono vivere solo gli imperatori. Così prende tutti i zozzoni, i disgraziati, i poveracci che stanno al centro di Roma, li carica sull'autobus, sui camion e li sbatte in periferia. Oh, dico la passetta, dico, forse voi ve lo ricordate perché ci stavate pure, che a quel tempo lì, dico, prima degli anni 30, tra il Colosseo e Piazza Venezia, al centro di Roma, ci stavano solamente casette basse, dove viveva la povera gente, il popolino, si diceva allora. Beh, dico, tutte queste case basse, Mussolini le spiana perché gli serviva una bella strada, larga, grande, al centro di Roma dove fare le parate fasciste. Ma tutti quelli che ci abitavano vengono deportati in un posto che si chiama Donna Olimpia. Dico, Donna Olimpia? A quel tempo la gente quando arrivò trovò una buca. La casa, la baracca propria, la gente la doveva costruire dentro a sta buca, ma davanti alla buca c'erano tre colline, che difatti poi si capì che durante l'occupazione nazista per ogni collina i tedeschi misero un fucile mitragliatore che controllavano Donna Olimpia come una galera. E poi esistevano posti come Borgata Gordiani. Borgata Gordiani è un'interminabile fila di baracche, solamente baracche, baracche proprio lunghe, un serpentone di baracche. Ogni baracca a Borgata Gordiani è divisa in quattro, ogni baracca ha quattro famiglie. Non c'è sta né la l'acqua potabile e nei gabinetti. Se vuoi l'acqua potabile, a Borgara Guardiani ci stanno le fontanelle, ogni 10 baracche ce n'è una, ovvero sia una fontanella ogni 40 famiglie, non so quante persone. Ma se per caso vorresti andare al gabinetto, ci stanno i cessi, quelli un metro per un metro, nei bussolotti decompensato, che la porta del cesso deve essere tagliata sotto, così che il miliziano fascista o il carabiniere si può sempre affacciare sotto la porta del gabinetto per vedere chi è che si è nascosto dentro. Dico, perché stai a Borgara a cercarle? Uno mica le trovava, mica ci stavano le indicazioni lungo la strada per trovare le borgare. Se ci andavi in quella borgata era perché proprio sapevi dov'è che stava. Ma però milizia fascista e carabinieri non mancavano mai, anche perché lì nelle borgate Mussolini ci aveva sbattuto pure tutti quelli che erano antifascisti, gente che dava fastidio al regime, gente che difatti si incontrarono a Roma in posti come il Quadraro, la borgata dove è nato mio padre, o Torpignattara, dove stava mia madre, o Centocelle, dove c'era l'aeroporto con l'aeroplani. Via Rasella è una strada dove il primo palazzo che sta in cima a questa salita o discesa, insomma, si chiama Palazzo Tittoni, è stato costruito dal cardinal Grimani nel 1500. Ma al numero 152 di quella strada c'è un palazzo costruito da un famoso medico del Papa, un medico che si chiamava Dottor Raselli. Dico, ecco per quale motivo questa strada si chiama Via Rasella, dal nome di sto medico, dottore del Papa, di sua santità. Dico, Via Rasella era una zona tranquilla. La gente che viveva a Via Rasella diceva, qua stiamo a Via Rasella, qui nessuno ci rompe l'anima, qua stiamo in pace. Abitiamo sotto il Quirinale sta qua sopra, il Papa vive in testa a noi, noi come vivere insieme al Papa, qui è tranquillo, è la pace qua. Difatti Via Rasella fu un posto tranquillo e pacifico fino alla fine dell'Ottocento, fino all'inizio del Novecento, con la costruzione dei quartieri, fino agli anni 10, 20, fino agli anni 30. Ma negli anni 30, alla fine degli anni 30, arriva il 1938. E nel 1938 è tempo che ogni italiano onesto si dichiari francamente razzista. Manifesto degli scienziati razzisti italiani. Col 1938 gli ebrei possono sposarsi solamente tra ebrei. Dal 1938, per legge, gli ebrei non possono più avere fabbriche, aziende, con più di 100 operai loro sottoposti, prima. Ma poi, piano piano, gli ebrei non potranno avere più niente. Manco i commerci quelli spiccioli, manco i negozietti. E sì che poi tutti lo sapevano che se c'è un mestiere che è il mestiere che fanno gli ebrei è proprio quello di vendere, di comprare, di fare i commerci. Beh, da un certo momento in poi, per legge, in Italia gli ebrei non possono più fare manco i stracciaroli, manco i bancarellari, manco i venditori ambulanti. Gli ebrei, per legge, vengono cancellati da tutti gli elenchi, perfino gli elenchi quelli delle strade, degli indirizzi. Tant'è vero che la gente a Roma si teneva l'elenchi del 1937, in maniera tale che così ce l'avevi ancora tutti quanti, con tutta la gente che abitava veramente a Roma. Gli ebrei non possono più avere la bicicletta, gli ebrei non possono possedere una radio, gli ebrei non possono lavorare negli uffici pubblici, statali, parastatali, poste, banche, che Roma era quello il lavoro, voglio dire. Da un certo momento in poi, per legge, in Italia, gli ebrei non possono più avere neanche un piccione viaggiatore di proprietà. E sì che col 1938 il governo italiano dichiarò guerra a 40.000 italiani, ovvero sia agli ebrei. Per quanto che prima del 38 tanta gente in Italia la guerra l'aveva pure già fatta. Ma non dico la prima guerra mondiale, quella delle trincee, tanto famosa, la grande guerra. Dico le altre guerre, quelle che stavano tra la prima e la seconda. Per esempio la guerra d'Africa. Anche se oggi quando te la vanno a imparare a scuola sta guerra d'Africa, ti dicono io, ma che guerra abbiamo fatto noi italiani in Africa? Ma che scherziamo? Siamo mica stati violenti come gli altri, gli inglesi, gli spagnoli che hanno fatto le stragi. Gli abbiamo portato la civiltà invece che rubargli la roba. Questi c'avevano il petrolio, gli africani sottoterra, mica gli avevo preso, gli avevo lasciato lì come dentro uno scrigno, capito? Il petrolio, gli abbiamo portato le case, le cose, le strade, le chiese, gli abbiamo portato i vestiti, questi andavano in giro nudi, sti bagonghi africani. Per questo che gli africani e noi italiani ci rispettano ancora. Se parlerà della guerra d'Africa, invece, anche per i processi per fosse ardeatine, quando qualcuno si ricorderà che in Africa, a Debra Libanos, come rappresaglia per un attentato fatto dagli africani, che agli africani manco gli era riuscito questo attentato, come rappresaglia, l'esercito italiano trucidò migliaia di africani. Poi, al processo, il grande generale fascista Graziani disse no, che migliaia, io ne feci fucilare solo qualche centinaio, per la precisione 349 africani, ovvero sia 14 in più rispetto all'eccidio nazista delle fosse ardeatine. Ma con la differenza che nella deportazione che seguì la rappresaglia morirono più di 1.000 africani. E questa era la guerra pacifica che l'Italia faceva pacificamente in Africa. Ma poi finalmente scoppiò la seconda guerra mondiale. E sì che però nel 40, nel 41, appena è cominciata la guerra, tutti dicevano, vedrai che questa guerra è una guerra che finisce subito. Capito? Questo si diceva alla gente. Tutti ci credevano. Non è il fatto se uno è fascista o non è fascista. Qua non si fa politica, si diceva a quel tempo. È il fatto che noi siamo alleati con l'esercito più forte del mondo. La Germania, quelli la guerra la vincono da soli, noi se siamo alleati col più forte, sicuramente la vinciamo appresso a loro, capito? Poi Mussolini ha detto che un anno, massimo due anni, sta guerra è finita, capito? Ha detto che nel 41, nel 42 al massimo la guerra è terminata, ha detto Mussolini che non sarà una cosa sanguinaria come l'altra guerra, quella dei trincea che sono morte tante persone. Questa qua è una guerra che è una passeggiata, ha detto Mussolini, che se la vogliamo vedere sta guerra, ce la fanno vedere mica a casa, dice che la vediamo al cinematografo sul grande schermo, ha detto Mussolini. Poi Mussolini ha detto che nel 1942 sta guerra da mo che è finita, perché nel 42 Mussolini ha preparato per Roma l'esposizione universale, che dice che è un trionfo di pacifismo questa esposizione universale. Tant'è vero che Mussolini ci ha costruito pure un quartiere che è una bellezza, si chiama EUR, capito? Si chiama EUR per questo motivo, E come esposizione, U come universale, R come Roma, EUR, ha detto Mussolini che l'EUR è il più bello e più moderno quartiere che è mai stato costruito al mondo, dice Mussolini che manchi in America ci stanno quartieri tecnologici e moderni come l'EUR, dice Mussolini che mo che è finita la guerra, mica saremo più noi italiani straccioni ad immigrare in America, no, saranno gli americani che vengono qua, che scappano, che emigrano in Italia da noi per trovare lavoro, capito? Altro che Little Italy, questi qua gli americani vengono a Roma, gli famo fare Little Washington, capito? Gliela famo costruire in Ciociaria, Strangola Galli, sta americani che sono diventati ricchi col petrolio, con le pepite d'oro che stanno sotto terra, questi qua gli americani li mandiamo sulla terra a zappare patate sul fucino in Abruzzo, gli famo piantare i broccoli, le banane, le zucchine, i rapanelli sull'Agrapontino a bonificare la Mussolini. Che sta bassetta mi fa, dice, ma mi dica un po', lei che parla dell'EUR, e non saprebbe mica dire se le affittano le case all'EUR. E di che so, di che affitteranno sì, di che all'EUR come tutta Roma. Mi fa, dice, ma non è che c'era attaccato qua dietro qualche cartello dell'EUR, di qualche casa che si affittano? Mi dice, ma quel cartello là, quello là dietro, sarà mica una casa che si affittano all'EUR. Dico, sì, ma quel cartello già ve l'ho letto. Ve l'ho letto 50 volte, ve l'ho letto pure prima, dico, è sempre lo stesso, ma che c'entra l'EUR? Dico, c'è scritto sul cartello là, quello là, lo conoscerà a memoria, c'è scritto fittasi, molo locale, metri quadrati, 35, angolo, cottura, telefono, ore, pasti. Dico, se volete, il numero del telefono, già ve l'ho detto 50 volte, ma se volete ve lo scrivo su un pezzo di carta, così magari gli telefonate direttamente voi da casa vostra. E mi dice, no, non importa, ma mi dice, grazie per la cortesia, siete molto gentili, mi dice, grazie per la cortesia, ma 35 metri per me sono troppi pochi, è troppo piccolo come appartamento, mi dice, grazie per la cortesia, siete molto gentili, mi dice, grazie per la cortesia, mi dice, grazie per la cortesia. Che dica sta bassetta, dico, ma lo sapete che questa è una storia che se uno vorrebbe la poteva raccontare parlando solo delle sirene, dico, le sirene mica quelle le donne con la coda di pesce, dico, le sirene quelle che suonavano prima dei bombardamenti. A Roma le sirene suonano dal primo giorno di guerra, solo che tanto la gente a Roma, tutti dicono, vedrai che a Roma la guerra manco la sentiamo, ci sta il Papa, ci sono i monumenti, vedrai che a Roma mica la bombardano. Difatti quando suonavano le sirene, in buona parte la gente manco ci andava nei rifugi, un po' perché tanto tutti erano sicuri che Roma non sarebbe stata toccata dai bombardamenti, e un po' pure perché tanto i rifugi spesso e volentieri si erano come tutti quelli che stavano pure intorno alla borgata di mio padre, di mia madre, a Torpignattara, al Quadraro. La maggior parte dei rifugi stavano nel sotterraneo della casa, mi dirai, bombardano la casa, crolla pure il rifugio che sta sotto, mica scappa quando bombardano la casa. Così allora la gente nei rifugi quasi quasi manco ci andavano. La guerra continuava, ma i bombardamenti a Roma non c'erano, la gente stava tranquilla, tutti dicevano, vedrai che Roma nessuno la tocca, c'è il Papa, ci sono i monumenti, suonano le sirene, ma bombardamenti non ce ne stanno. Poi arriva il 19 di luglio del 1943, quel giorno lì, la mattina, quando suonano le sirene, tutti sono convinti che vedrai, sono tre anni che va avanti la guerra, mica bombarderanno proprio oggi. Quando vedono passare gli aeroplani in alto, nel cielo, a San Lorenzo, li vedono passare come tanti pezzetti di metallo luccicanti, qualcuno dice pure, ma chissà dove vanno a far danno questi aeroplani, andranno a bombardare giù nella Bassa Italia, nel meridione. Invece il bombardamento del 19 luglio del 1943 è il primo bombardamento di Roma, e bombardano proprio su Roma, sul quartiere di San Lorenzo. Moriranno forse 1.000, 2.000, qualcuno dice addirittura 5.000 persone. Il governo italiano disse 717 morti. Pensiamo, quando il governo dice una cosa uno si deve credere. Ma quel giorno lì però Mussolini non sta a Roma a contare i morti. Il 19 luglio del 43 Mussolini sta a Feltre, si è incontrato con Hitler. Traduttore tra Hitler e Mussolini è il colonnello Montezemolo di Torino, una brava persona. Ma però l'incontro va malissimo, difatti non passa manco una settimana, sei giorni più tardi, il 25 di luglio del 1943, il Gran Consiglio del Fascismo costringe Mussolini a dimettersi. E Mussolini viene pure arrestato, lo arrestano due carabinieri, come Pinocchio, si chiamano Aversa e Frignani. Poi Aversa, Frignani e Montezemolo moriranno tutti e tre alle fosse ardeatine, ma questo qualche mese più avanti. Per intanto la gente in Italia viene a sapere che Mussolini non è più lui che comanda in Italia, che niente nemmeno l'hanno messo in galera, che ormai gli americani sono sbarcati in Sicilia, tutti quanti dicono vedrai che allora la guerra è sicuro che è finita. Difatti tutti alla fine di luglio scendono per le strade, cantano, ballano, festeggiano, bruciano le immagini di Mussolini, buttano giù le statue del Duce, festeggiano che finalmente è finita la guerra, è finito il fascismo. Ma poi arriva l'8 settembre del 1943. 8 settembre 43 tutti sentono alla radio che è stato firmato l'armistizio. Ovvero sia, che significa? Che se prima eravamo alleati con la grande Germania, ora siamo alleati con l'America, con la Francia, con l'Inghilterra, con l'Unione Sovietica, con altro mezzo mondo. Beh, insomma, con quelli che bombardano. Siamo alleati con quelli che bombardavano fino a ieri, dice la gente. E se ora siamo alleati vuol dire che non bombardano più. Difatti l'8 settembre del 43 tutti scendono per strada, cantano, ballano, festeggiano che finalmente mo davvero è finita la guerra. Ma la sera stessa dell'8 settembre a Roma, su un ponte dalle parti della Magliana, un gruppo di soldati italiani, granatieri di Sardegna, vedono dall'altra parte di un ponte dei soldati tedeschi. Quello è il granatiere, dice quell'altro, oh vedi, quelli sono tedeschi, prima erano amici, mo sono diventati nemici, bisogna stare attenti. Ma però i tedeschi vengono avanti. Con la bandiera bianca vengono, dicono camarade, camarade, non sparate. E quello dice quell'altro, vedi, saranno pure tedeschi brutti, sporchi e cattivi, ma però si arrendono. Sono mica scemi i tedeschi. Lo sanno che stanno qua in Italia da noi, che qui in Italia da noi siamo più noi di loro. Era ovvio che si sarebbero arresi. Così gli italiani granano un po' ovunque. Il giorno appresso per Roma, per le strade di Roma, passa una fila di macchine nere, che non è un funerale. La gente le vede passare queste macchine, sono tante, con 12 motociclisti che le scortano. E dentro le macchine i romani riconoscono il re, la regina, il principino, giovane giovane, bello, innocente, Badoglio. Il fatto sta che il governo italiano ha appena firmato l'armistizio, che il capo del governo, il re e tutta la famiglia regale scappano tutti. Il re con la famiglia regale sono ritornati da poco in Italia. L'11 settembre, la sera dell'11 settembre, Roma ormai è una città occupata. Quella sera stessa inizia la deportazione di 900 ufficiali dell'esercito italiano. E quando il feldmaresciallo Kesselring, dei tedeschi, arriva a Roma, prende posto a Roma, convoca tutti quanti e appende sui muri di Roma il primo di una lunga serie di manifesti, che io però me li immagino, la gente a Roma, quelli che non so bene leggere e scrivere, analfabeti, quelli che vorrebbero sapere che cosa c'è scritto su sto manifesto e cercano qualcuno che glieli legge. Io mi rifiguro che se ne vanno al cinema Iris, odierno cinema Gioiello, in fondo a Via Nomentana, a Porta Pia da mio nonno, che gli dicono Sor Giulio, dite un po', che c'è scritto su sti manifesti tedeschi? E mio nonno dice, Roma è una città occupata. A Roma vige il codice tedesco di guerra. I telefoni saranno sorvegliati. Sabotatori e franchi tiratori saranno fucilati. Alla fine del mese di settembre, sempre di quell'anno là, del 1943, alla fine di settembre, il capo della Gestapo, Herbert Kappler, convoca i capi della comunità ebraica e ordina agli ebrei di consegnare 50 kg d'oro. 50 kg fanno gli ebrei. E dove stanno 50 kg? Quanti sono 50 kg d'oro? Chi l'ha mai visti? 50 kg, dice Kappler, che è uno sbrigativo, un intellettuale, uno spiccio. Li dovete portare entro 36 ore. E per lì gli ebrei si mettono in cerca di questo oro. Mica è facile trovarli 50 kg d'oro, poi in tempo di guerra, voglio dire. Allora qualcuno riesce a trovare qualcosa che c'è a casa, qualche catenina, qualche braccialetto, ma prima di arrivare a 50 kg. Poi aiuta anche altra gente che non è ebrea, qualcuno che porta dell'argento, qualcosa da vendere, antichità. Qualcuno che porta del denaro per comprarlo l'oro. Qualcuno gli dice pure, ebrei, porcaccia miseria, cercatelo l'oro, trovatelo, ma non lo darete ai tedeschi, non fate sta pregnaccia, tenetelo per voi l'oro, i soldi, il denaro, comprateci le armi, difendetevi. Ma quali difendetevi, dicevano gli ebrei. I tedeschi ci hanno detto che se noi non consegniamo i 50 kg d'oro, loro, tedeschi, deporteranno in Germania 200 capifamiglia. Ma noi che cosa racconteremo ai figli, alle generazioni future, che non abbiamo voluto pagare? In poco più di 36 ore, questa è tutta una storia più complicata, ma in poco più di 36 ore... gli ebrei consegneranno i 50 kg d'oro ai tedeschi. E neanche un mese più tardi, il 16 ottobre del 1943, verranno deportati in Germania nei campi di sterminio non 200 capifamiglia, bensì 1022 ebrei, tra capifamiglia, donne, vecchi, ragazzini. Di questi 1022, poi per la cronaca, ne torneranno vivi a Roma alla fine della guerra soltanto 16, 15 uomini e una sola donna. Ma in quel tempo i tedeschi continuano a appiccicare manifesti per tutta Roma. In uno dei manifesti che vengono appiccicati verso la fine di settembre, inizio d'ottobre, c'è scritto che le persone abili per il lavoro si devono presentare obbligatoriamente. abili per il lavoro a Roma, secondo i tedeschi, ce ne stanno 16.000. Sarà che a Roma non ci piace lavorare, ma queste 16.000 persone se ne presentano manco 300. Allora, visto che non sono manco 300 quelli che si sono presentati, i tedeschi cominciano con i rastrellamenti. Un rastrellamento che vuol dire? Bloccare una strada da capo e da piedi, quelli che stanno in mezzo, uomini, più di 16 anni, meno di 50, vengono portati via, per il lavoro obbligatorio, quando fa bene. Beh, oh, in un rastrellamento all'inizio d'ottobre, mi pare il 7 ottobre, all'alba, in una baracca alla Dispoli sul mare, un gruppo di soldati tedeschi con un fascista che fa da traduttore e hanno trovato un gruppo di ragazzi, 6 ragazzi, giovani, 18-20 anni, renitenti alla leva, che non si sono presentati per la leva obbligatoria. E bravi di fa il fascista, traducendo il tedesco. Che non vi siete presentati? Che non lo sapete che gente come voi si deve presentare obbligatoriamente, che chi non si presenta ci sta all'arresto e forse anche la pena di morte? Ma noi saremo clementi, gli dice il fascista. De voi 6 ne ammazzeremo uno solo come esempio per gli altri. Il fascista a sti 6 ragazzi gli dà 6 fiammiferi. Gli dice: il primo che si spegne, questi 6 fiammiferi accesi. Il primo che si smorza, che si spegne, quello che c'ha il fiammifero spento pagherà per tutti. Toh, si è spento il tuo, come ti chiami? Dice quello: Ferruccio Fumaroli. Bene, dice il fascista. Il tedesco va dietro e gli spara in testa. Allora il fascista dice: rifacciamolo questo gioco. Mo si è spento il tuo. Il tedesco va dietro e spara in testa anche a quello. Poi i tedeschi si scocciano e ammazzano gli altri 4. All'inizio del mese d'ottobre del 1943 nascono a Roma i GAP, significa gruppi di azione patriottica, sui partigiani legati al Partito Comunista. Ma poi nei giorni e nelle settimane che seguono nascono tutti gli altri nuclei partigiani legati agli altri partiti antifascisti. L'ordine è di attaccare i tedeschi ovunque, anche senza preavviso, sia i tedeschi che i fascisti carogna che gli danno una mano. Ma a Roma è vietato girare in macchina. Così che allora le azioni partigiane a Roma si vanno a fare o a piedi o in bicicletta. Alla fine di dicembre, il 28 dicembre, Mario Fiorentini, che è un partigiano dei GAP, che è uno che campa ancora, Mario, è uno che sta pure in salute e racconta assai. Mario sta in bicicletta a Roma, sul Lungotevere, si ferma all'altezza di Via della Lungara, che è una stradina leggermente più bassa. Si ferma e aspetta che su Via della Lungara ci passi il camion tedesco che va a Regina Celi, al carcere. Quando Mario lo vede arrivare, sto camion, Mario tira fuori dalla saccoccia una bomba, l'accende, la lascia cadere sul camion, il camion tedesco esplode, Mario monta sulla bicicletta, pedala e scappa via. E dal giorno successivo a Roma i tedeschi vietano pure l'uso della bicicletta. E vabbè, insomma, i romani, quelli che hanno la bicicletta, si hanno fatto i sacrifici per comprarsela, è perché evidentemente gli serve questa bicicletta, no? Così allora tanti a Roma si inventano di attaccare alla bicicletta una terza rotella, che poi manco era proprio una rota, perché insomma uno non è che andava da ferramenta e chiedeva una rota. Se trovava il pane, figurava se le rotelle per le biciclette. Così allora tanta gente attaccava alla ruota di dietro della bicicletta uno zeppo di legno o un pezzo di ferro, e in fondo a sto pezzo di ferro si mettevano come rotella le scatole quelle del lucido da scarpe, che una volta si facevano tipo le scatolette del tonno. Allora con questa specie di rotella giravano per strada, ma quando ti fermava il fascista o il tedesco ti diceva: lo sapete che è vietato girare in bicicletta, che il mezzo deve essere requisito e voi rischiate pure la pena di morte? E quello il romano diceva: ma che bicicletta? C'ha 3 ruote, è un tricicolo, no? E alla fine del mese di gennaio del 1944 sono sbarcati gli americani a Roma, cioè, non a Roma perché a Roma non c'è il mare, ma insomma sono sbarcati ad Anzio, che sta a 40 chilometri. Così allora tutti quanti dicono: vedrai che altro che 15 giorni, qui una settimana, 2-3 giorni sono arrivati gli americani a Roma, vedrai che domani dopodomani sono arrivati gli americani e ci prendiamo il gelato insieme agli americani e insieme al Papa da Fassi a Piazza Vittorio. Così allora Roma si deve liberare subito, prima ancora che arrivano gli americani. Tant'è vero che alla fine di gennaio, inizio febbraio del 1944, tante borgate, quartieri di Roma sono praticamente liberi, posti dove ormai i fascisti non se ne vedono più, ma figuriamoci, tedeschi e fascisti, nessuno dei due se ne vedono più per strada. Posti come la Garbatella, come il Quarticciolo, Centocelle, Torpignattara, dove addirittura ci sta la polizia che addestra i partigiani, li impara a sparare, e dove qualcuno racconta la storia di questo fascista. Un fascista che alla fine si è pentito e prestava il fucile suo ai partigiani per esercitarsi a sparare di notte, che però il fascista diceva: oh, sto fucile me lo dovete riportare presto la mattina, non mi fate girare per strada senza il fucile mio, me lo dovete riportare, che io devo girare col fucile, perché se no mi fate fare figuracce, io agli occhi della gente sempre fascista sono, no? Gli dicevano i partigiani: ma proprio adesso vai cercando il fucile tuo, abbi pazienza, perché non lo sai che tra 15 giorni arrivano gli americani? All'inizio del mese di marzo del 1944, in una fiaschetteria, si incontrano 4 partigiani. Sono Lucia Ottobrini, Mario Fiorentini, che poi questi due si sposeranno e stanno ancora insieme, campano ancora insieme questi due. Poi ci sta Rosario Bentivegni e Carla Capponi, pure loro si sposeranno ma se la lasceranno quasi subito. Beh, insomma, questi quattro partigiani, lì a Via Rasella, verso le 2:30, vedono passare un gruppo di tedeschi, soldati tedeschi, saranno 150, 160 a contarli, marciano, cantando. E quello allora Mario Fiorentini dice, vedi questi qua, questi tedeschi passano tutti i giorni, bisogna fare un'azione contro di loro, passano sempre verso le 2:30. Così allora si decide che si deve fare un'azione lì a Via Rasella, un'azione partigiana, e si deve fare entro la fine di marzo. E si decide che viene fatta il 23 marzo 1944. Quel giorno lì, Rosario Bentivegni e Carla Capponi mangiano insieme, verso l'ora di mezzogiorno, verso la mezza, mangiano insieme alla birreria Dreher che sta a Piazza Santi Apostoli, dove c'era un compagno che faceva il cameriere, che un po' allo stesso prezzo gli dava la doppia razione. Questi due, Carla Capponi e Rosario Bentivegni, mangiano insieme, poi ci vedranno 2 ore più tardi, perché mangiano verso mezzogiorno, ci vedranno 2 ore più tardi lì a Via Rasella. Rosario Bentivegni, Sasà Bentivegni, arriva vestito a Via Rasella con la divisa da spazzino, da Netturbino, insomma, da scopino. C'è il carretto, sul carretto con le ruote di ferro ci stanno 2 bidoni. In uno dei 2 bidoni ci stanno 18 kg di tritolo nascosti sotto la monnezza e uno zeppo di legno lungo 50 cm con sopra una miccia di 50 cm che se è fatta per bene brucerà in 50 secondi, ma nessuno può sapere se la miccia è fatta bene fino a quando non brucia. Si potrebbe spegnere una miccia, saltare, rompere, spezzare. Beh, insomma, comunque, lui, Bentivegna, se ne va vestito da spazzino con questi bidoni della monnezza. In uno dei 2 bidoni c'è sta l'esplosivo, ma nell'altro non c'è niente, è vuoto. Tant'è vero che Bentivegna lungo la strada penserà pure perché mi hanno dato il bidone vuoto. Quello lì, pensa l'accidente, tutto il ferro, era meglio che lo lasciavo indietro. Poi camminando lungo la strada penserà pure, certo che Roma è tanto bella con queste pietre, questi San Pietrini per terra, ma camminare con sto carretto che rode le ferro non si arriva mai. Lungo la strada Bentivegna incontra anche dei spazzini veri che gli diranno, ma dove vai in giro a quest'ora? Non va a mangiare, non c'hai fame, non c'hai una famiglia? No, dirà lui, che famiglia è famiglia, mangiare e mangiare. Vado a fare un lavoro extra, dice lui Bentivegna. Vado a caricare del cemento, mi pagano per questo. Quelli gli dicono, dice, sì, è il cemento. Che devi fare, devi costruire il Colosseo? Apri sti bidoni, gli dicono, facci vedere i presciutti, le mortadelle, le scamorze. Perché lo scambiano per uno che fa la borsa nera? Ma lui sarebbe dritto verso Via Rasella. Arriva a Via Rasella verso le 2 e i tedeschi devono passare. Se non passano alle 2, passeranno alle 2:30. Ma alle 3:15 i tedeschi non si sono ancora visti. Arrivano le 3:10, le 3:15, le 3:30. Alle 4:15, dopo quasi 2 ore, i tedeschi non sono ancora passati. Allora si decide che se non passeranno per le 4, bisogna mandare a monte tutta l'azione. E già Bentivegna pensa a sto carretto da riportarsi indietro. Un accidente che pesava. Poi c'è stava tutto quel tritolo là dentro. Ti arrestavano, c'era la fucilazione, se ti trovavano con coltello in tasca, figuriamoci 18 kg di tritolo con tanto remiccia. Ma a un certo punto, qualche minuto prima delle 4, viene dato il segnale. Il segnale viene dato da un partigiano che si chiama Guglielmo Blasi, che poi sarà quello che tradirà, e questa è tutta una storia tutta più lunga e più complicata. Ma viene dato il segnale e arrivano i tedeschi. I tedeschi marciano cantando una canzone che in tedesco dice «Salta ragazza mia». Saranno 150, 160 a contarli. Davanti c'è un gruppo d'avanguardia e in fondo c'è un carretto trascinato da un somaro. Sul carretto c'è sta un fucile mitragliatore. Allora Bentivegna, col braciere della pipa dove ci ha rotto dentro 3 sigarette, il tabacco di 3 sigarette, accende la miccia, corre via. Carla Capponi gli corre dietro e gli nasconde le spalle con impermeabile. Carla e Rosario Bentivegna scappano su un tram, su un autobus che passa da quelle parti. Ma mentre che brucia la miccia, un gruppo di ragazzini gioca a pallone proprio vicino al carretto, vicino all'esplosivo. Allora Pasquale Balsamo corre su da via del Boccaccio. Si fa un pezzettino di salita, si avvicina a sti ragazzini, gli ruba il pallone, dà un calcio al pallone, il pallone rotola giù per la discesa, il ragazzino si gira verso Pasquale Balsamo, dice, oh, affiatola mignotta, ma che sta a fare? Poi vede che il pallone suo non ci sta più, corre dietro al pallone, e quei ragazzini lì, quelli lì si salveranno. Il carretto esplode, contemporaneamente da sotto arriva il Boccaccio e gli altri partigiani lanciano delle bombe a mano. Nell'esplosione moriranno 32 tedeschi e un ragazzino italiano, Zuccheretti, che il fratello gemello campa ancora. I tedeschi non capiscono bene quello che è successo, vedono le bombe, l'esplosione, pensano che le bombe siano state buttate dall'alto, così cominciano a sparare sui tetti, sulle finestre, ad altezza d'uomo. È stato colpito l'11° reparto del Polizei Regiment Bozen in fase di addestramento a Roma. Quando Adolf Hitler dalla Germania viene a sapere quello che è successo a Roma in pieno centro, in pieno giorno, dà ordine che vengano uccisi 50 italiani per ogni soldato tedesco morto e bisogna far saltare in aria l'intero quartiere. Questo è l'ordine che dà Hitler. Però poi nelle ore successive qualcuno dirà 50 sono troppi, meglio 20, 30, 15. Mica lo so quello che si sono detti. So soltanto però quello che è successo e quello che stava scritto pure sul giornale che ha letto pure mio nonno. C'era scritto 10 comunisti badogliani per ogni soldato tedesco morto. 32 tedeschi morti. E il conto è facile, 320 persone da uccidere. 320 che però devono essere già stati condannati a morte per fare un'esecuzione esemplare davanti agli occhi di tutti, per far capire chi è che comanda a Roma, che non sono sti partigiani terroristi invisibili, bensì i tedeschi che in maniera legittima l'hanno occupata. Allora si cercano questi condannati a morte. Ma 320 condannati a morte sono troppi, non ce ne stanno. Arrivano a contare nelle galere e ne trovano 3. Ce ne sarebbero 4, ma uno è già stato graziato. 3. E 3 non so 300. Così allora Herbert Kapler, il capo della Gestapo, pensa bene che per un fatto di sbrigare velocemente la pratica, perché questa qua è stata una tragedia, ma pure una cosa burocratica. Per sbrigare velocemente la pratica, pensa Kapler, che si può tranquillamente passare dai condannati a morte a quelli che ipoteticamente potrebbero essere condannabili. E nell'ipotesi per Kapler a Roma quasi tutti potrebbero essere condannabili. Anche uno che si chiamava Ettore Ronconi. Questo qui faceva il cagoloste, portava il vino, quel giorno là stava a Via Rasella, era appena arrivato da Genzano, quel paese che 100 anni prima aveva tanto bestemmiato contro il Papa perché volevano le pagnotte grosse. Beh, questo qua è un nipote di quei bestemmiatori per le pagnotte. Questo qui, Ettore Ronconi, era appena arrivato a Via Rasella per portare il vino alla fraschetta che sta lì a Via Rasella, no? Portarci la botte del vino. Pure Ettore Ronconi, l'oste, ipoteticamente condannabile per Kapler. Eppure Ronconi poi il giorno appresso per davvero verrà ammazzato le fosse ardeatine. 320. Però durante la notte all'ospedale muore un altro tedesco, uno che muore per conto suo, insomma, che era stato ferito lì a Via Rasella, ma muore per conto suo all'ospedale. Allora Kapler, per un fatto di giustizia, di matematica, no, la burocrazia, per un fatto di giustizia, decide che bisogna mettere nel numero altre 10 persone da uccidere, altri 10 italiani, poi se sbaglierà se ne mette 15. Totale 335, e manco è facile ammazzare 335 persone. Così questi 335 vengono portati in una cava abbandonata lungo la Via Ardeatina, un po' fuori Roma. Vengono portati coi camion, con l'autobus, vengono scaricati lì vicino alla cava, sull'Ardeatina, e fatti entrare gruppi di 5, l'ordine è preciso. Devono ricevere il colpo all'altezza della nuca col capo leggermente rovesciato in avanti. Il colpo deve essere uno solo, non bisogna consumarne troppi. Ma poi durante l'esumazione il dottor Ascarelli ne troverà uno con 4 fori nel cranio. Durante l'esumazione ne vengono fuori anche 39 che ormai è impossibile reperire la testa, che molto probabilmente è esplosa quel gas di esplosione all'interno della scatola cranica. Molti altri vengono trovati con ferite lievi, per cui manco sono morti subito. Kapler al processo dirà che lui ha chiesto ai suoi sottoposti, dice, ma questi qua che li mandiamo dentro, lo sanno qual è la loro condanna? I sottoposti gli hanno detto di no, che non gli eravamo detto per non creare disordine. Per cui questi qua andarono a mandarli là dentro, non fecero in tempo manco a scrivere 2 righe a casa, un biglietto. Sono 335 persone, ed è il 24 marzo del 1944. Poi 4 giorni più tardi, dopo il 24 marzo, 4 giorni più tardi, che era il 28 marzo, i tedeschi ritornano alle cave ardeatine, fanno 3 buche e mettono 3 cariche di esplosivo. La cava venne fatta saltare in aria e una montagna di terra crolla su questa montagna dei morti. Una montagna dentro un'altra montagna. E adesso davvero, come dice pure il giornale che ha letto mio nonno, adesso davvero l'ordine è stato eseguito. Ma in quei giorni però esce anche un altro giornale. È un giornale, un quotidiano che esce ancora questo qua. Si chiama L'Osservatore Romano, il quotidiano del Vaticano. Ed esce con un articolo strano. Una cosa che quando la gente l'ha letto un po' c'è rimasta. E poi un articolo di cui si è parlato tanto, soprattutto ai processi. Se ne è parlato tanto, fino agli ultimi processi che ci sono stati pochi anni fa. Io me l'immagino però le persone che in quei giorni lì, che ancora non è finita la guerra, sanno che sull'Osservatore Romano, su un giornale così importante, c'è un articolo importante da leggere. Io mi immagino quelli che non so bene a leggere e scrivere, analfabeti. Me l'immagino che pure loro se lo vorrebbero leggere. Me l'immagino che se ne vanno al cinema Iris, odierno cinema Gioiello, in fondo a Via Nomentana, a Porta Pia da mio nonno, che dicono, Sor Giulio, dite un po', che ce la fa questa grazia di leggere quello che si può leggere sopra questo giornale del Papa? È mio nonno che prende l'Osservatore Romano e legge. Sul giornale c'è scritto che 32 vittime da una parte, 320 sacrificati dall'altra, per i colpevoli sfuggiti all'arresto. Così per il quotidiano del Vaticano. Quelli ammazzati all'Ardeatina diventano sacrificati come se fosse un episodio biblico, non crimine umano. I nazisti diventano vittime e i partigiani i colpevoli. Dico, beh, da qui bisognerebbe raccontarla la storia. Non da prima, è qui che diventa interessante la storia. E questo è il momento che la storia qualcuno comincia a riraccontarla, perché fino a sto punto sono solamente le cose, i dati, i numeri, i fatti, uno presso l'altro, ma è qui che diventa interessante la storia. E questo è il momento che qualcuno ha cominciato a riraccontargli i fatti, a ridirlo quello che è successo. È qui che nasce la polemica, quella che si trascina avanti ancora adesso, dopo 60 anni. Quella che dice, ma lo sai che quei 32, 33 che vennero ammazzati dai partigiani, là, quei 32, 33 tedeschi che morirono a Via Rasella, mica erano tedeschi. Erano Alto Atesini. Oh, dimmi un po', che fanno i partigiani romani? Sti comunisti, c'erano contro l'Alto Adige che ammazzano gli Alto Atesini? Perché mi serve questi qua? Era il Polizei Regiment Bozen che fu attaccato dai partigiani. Erano Bozen, erano Alto Atesini. Ma non erano mica l'Alto Atesini quelli che fanno lo specchio e il formaggio sulle Alpi. Dico, questi erano Alto Atesini nazisti, dico, ci sarà la differenza, no? Poi peraltro i partigiani romani mica ce l'avevano contro la Germania come espressione geografica. Avrebbero mica sparato a uno qualsiasi, che basta che era tedesco, a un idraulico di Berlino, che ne so io. A Schumacher il pilota della Ferrari solamente perché è nato in Germania. Dice, sei tedesco devi morire. No, insomma, voglio dire, c'è una differenza, no, tra uno che fa lo specchio sulle Alpi, un pilota di Formula 1 e un nazista. Eppure ancora oggi tanta gente lo dice. Quelli lì erano altoatesini, i partigiani ammazzarono degli altoatesini che non c'entravano niente. E poi ti raccontano anche che dopo che fu fatta questa azione partigiana di Via Rasella dai partigiani a Roma, dice che dopo i tedeschi, quando contarono i loro morti, 32, 33 quanti erano, appiccicarono dei bandi, dei manifesti per tutta Roma, sui quali manifesti si era scritto che se i partigiani colpevoli di quell'azione si fossero presentati, loro tedeschi non avrebbero ammazzato nessuno. Ma dice, però i partigiani mica si presentarono. Cosicché i tedeschi si sentirono liberi di ammazzare tutta quella povera gente lì alle fosse ardeatine. Ma dico io, ma quali manifesti? Quali bandi? Non vedi che il 23 marzo 1944, alle 4 del pomeriggio, scoppia la bomba messa dai partigiani? La sera del giorno dopo, già l'eccidio alle fosse ardeatine si è compiuto. Ma quando l'hanno stampato i manifesti i tedeschi? E quando ci hanno avuto il tempo per appiccicarli in giro per i muri, per stamparli sui giornali? I tedeschi non dissero niente, non stamparono manifesti, non fecero bandi. Ma mica perché lo dico io, O i partigiani, o i comunisti cattivi. Ma perché lo dicono loro stessi, lo dicono i tedeschi al processo. Nel novembre del 1946, domanda del giudice a Kesselring. Dice, ma voi potevate dire se i partigiani colpevoli di questa azione di Via Rasella si presenteranno, noi libereremo le persone che abbiamo arrestato? Kesselring risponde, sì, adesso a distanza di 2 anni credo che l'idea sarebbe stata buona. Ma non lo faceste, gli dice il giudice. Risponde Kesselring, non lo feci. E poi... Ma per quale motivo i tedeschi dovevano andare a raccontare ai romani che stavano per ammazzare più di 300 persone, ma sarebbe successo un macello per Roma, no? I tedeschi non dissero niente se non dopo, quando la cosa già era successa. Allora sì che si venne a sapere. Eppure tanta gente ancora oggi te lo dice. L'ha visto mio padre, l'ha vista mia zia, l'ha visto i manifesti. La gente ai manifesti, i bandi, le ordinanze dei tedeschi, l'hanno vista anche se nessuno l'ha mai stampata. Mica sempre per cattiveria, Ma anche perché in questa menzogna, in questa bugia che si porta avanti da più di 50 anni, qualcuno ha trovato una speranza per questi 335 che è una speranza che nessuno mica gliela darà mai. Qualcuno ti dice, io l'ho intesa alla radio, il bando dei tedeschi l'ho sentito pure alla radio, per giorni hanno dato sto bando alla radio. La verità è che se tu avessi acceso la radio in quei giorni là, mica sentivi i bandi dei tedeschi o dei fascisti comunicati, bensì le canzonette che mandavi il regime, che però spesso e volentieri erano pure canzonette divertenti, allegre e suonate da musicisti straordinari che diventeranno famosi soprattutto dopo, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando potranno suonare pure le musiche americane. Che sta bassetta mi dice, ma mi dica un po' lei che si intende anche di radio. Che me lo saprebbe dire, per piacere, quanto costerebbe una radio transistor, di quelle senza filo, con le batterie, portateli? Dico, signore, ma che ne so, dico, mica vendo i frigoriferi e radio io, no? Non saprei, dico, 20-30 mila lire, dico, se la compro adesso magari in euro costerà 20-30 euro, non c'è idea di quanto potrebbe costare. Dice, ma perché a me mi piacerebbe tanto di sentirla la radio, pure quando me ne vado a fare la spesa al mercato che compro le mele, le pere, le pesche, capito che la radio mia c'è sempre il filo, senza filo non funziona, io mi vorrei comprare sti radi transistor, capito, con le batterie. Mi dice la bassetta, fin da quando ero ragazzina la radio l'ho sempre sentita, mio padre che era grande invalido del lavoro, mi dice la bassetta, porto a casa una radio grossa così, pareva un frigorifero, io mi appiccicavo a sto frigorifero di radio, a sta lavatrice, e mi sentivo all'altoparlante tutte queste canzoni. Niente, no? Oh, sta radio, lei non lo sa, ma sta radio grossa di quel tempo lì, tutte le volte che l'accendevi faceva uno scrocchio forte e poi cominciavano le trasmissioni. Poi quando la smorzavi, la spegnevi, faceva lo stesso identico scrocchio e fine delle trasmissioni. Poi in tempo di guerra, sai, mio padre verso quell'ora la voleva sentire solamente lui la radio. Sentivamo questi comunicati di questa radio clandestina, che sta radio clandestina era vietata di sentirla, C'era il divieto, Mussolini aveva detto che chi la sentiva, la radio clandestina, c'era la pena di morte. Ma noi la sentiamo uguale, tanto Mussolini mica abitava con noi, noi la sentiamo bassa bassa e Mussolini non viva da Palazzo Grezia. Quando sentiamo sti comunicati, sa, mio padre sentiva tutte ste frasi, ste parole di questa radio clandestina straniera, ste parole che non volevano dire niente, no? Tipo, che ne so, Maria fra torta, Giuseppe se l'è magnata, Pippo vola sulle montagne, la papera salta al fosso. Ma ste frasi che non volevano dire niente. Io che ero una ragazzina, mi diceva la passetta, davanti agli occhi miei mi figuravo che pure questi qui che comunicavano tutte ste frasi balorde erano una specie di americanoni ciccioni che, mentre che parlavano con noi italiani, fumavano il sigarone e mangiavano in questi pranzi cene di galateo. Una cosa mia, ti ricordo mio, di memoria mia personale. Poi, in tempo di guerra ci stavano certi ragazzini che andavano rimediando i residuati di guerra, no? Certe bombe che non erano scoppiate, le portavano a casa, le smontavano, gli davano fuoco, certi botti tremavano le pareti. Un giorno i fidi del portiere sotto casa portarono un mezzo ordigno che quando gli dettero fuoco tremò la borgata, le finestre nostre si ruppero e la radio fece croc e non funzionò più. Oh, si è rotta 50 anni, 60 anni fa, non ha più rifunzionato, niente, lì cambia fili, mette la spina, cambia il pomello, ma sta radio non funzionava più. Eppure io, mi dice la bassetta, sa, in 50 anni, 60 anni che ho fatto sempre traslochi tutti gli anni, questa radio ce l'ho sempre voluta avere dentro casa, per un fatto mio, di ricordo mio, di memoria mia personale. L'altro giorno poi mio nipote si è messo lì a trafficare con sta radio, a truiaco con ste manopoli, stacca e attacca la spina, a un bel momento abbiamo inteso lo scrocchio e la radio ha ricominciato a funzionare. E dopo più di 50 anni ha ricominciato a rifunzionare la radio ed è sempre rimasta sintonizzata sullo stesso canale. E dopo più di 50 anni ha ricominciato a rifunzionare la radio clandestina. Beh, certo, non quella che sentiva mio padre, però lo stesso canale, Solo che adesso facevano una trasmissione che si chiama Tango contro Samba. Nel senso che prima le fanno sentire in tango, poi appresso una samba, poi in tango, una samba, in tango, una samba, così per tutta la giornata. Alla fine il radioascoltatore deve telefonare e dare il voto di preferenza se ha aggredito di più il tango o la samba. Oh, mi dice la bassetta, tutto il giorno sono stare a sentire questa trasmissione. Alla fine della trasmissione, alla fine della serata, ha vinto il tango. Che faccio di questa bassetta? Dico, ma lo sapete che 335 persone che sono state a ammazzare quel giorno lì all'Ardiatina erano solamente uomini? Tant'è vero che poi furono le donne che li andavano a cercare. Ste donne, madri, figlie, sorelle, mogli, giravano per tutta Roma andando a cercare sti mariti, sti parenti loro che non tornavano a casa. Una, per esempio, andò a portare il cambio pulito al marito suo che stava in galera. Portò il cambio pulito, ma le guardie non dettero indietro quello sporco. Lei capì che era morto, ma dov'è che era andato a finire e com'era morto? Poi piano piano alle donne, a queste donne qui a quel tempo, arrivarono dei fogli scritti a casa, ma scritti in tedesco. Figuriamoci, le donne a Roma, ma pure gli uomini, non sapevano leggere manco italiano, figuriamoci il tedesco. Tant'è vero che queste donne se ne andavano dalle guardie e chiedevano cosa c'è scritto sopra questo foglio, e la guardia traduceva, diceva c'è scritto che vostro marito è defunto e dovete andare a ritirare gli effetti personali. Alle donne ebree chiaramente questi fogli non arrivarono, perché quelle erano state scancellate da tutti gli elenchi, pure quelli delle strade, degli indirizzi già dal 38. Poi piano piano si venne a sapere che forse questi morti stavano lì, all'Ardiatina, in quelle cave, dove era successo chissà che cosa. Allora le istituzioni, ma questo già la guerra a Roma era già finita, già erano andati via i tedeschi. Le istituzioni decisero che per un fatto igienico su questi morti che stavano seppelliti lì all'Ardiatina era meglio mettere una colata di cemento. Che le donne dissero, ma che cemento? Dove vado io a piangere a pregare? In ginocchio sul cemento? Così allora nel mese di luglio, in piena estate, col caldo che faceva, incominciarono le esumazioni. I cadaveri venivano staccati da un'unica amalgama, messi in fila, in ordine, numerati, dal numero 1 che stava sopra al numero 335 che stava sotto. Difatti ancora oggi i parenti delle vittime se lo ricordano perfettamente il numero della persona che andavano cercando. Contemporaneamente i parenti dovevano portare dei fogli scritti, sui quali fogli c'era scritto com'era la persona che andavano cercando, alta, bassa, bionda, mora, segni particolari, perché era quasi impossibile se non riconoscerli. La maggior parte di loro infatti erano irriconoscibili, qualcuno non si capiva manco se era uno o due. Poi piano piano, insomma, si riconobbero quasi tutti. Dico a sta bassetta, dico, guardi, dico che so, saranno una decina quelli che non sono stati riconosciuti su 335. Dico, sono riconosciuti, quasi tutti sono stati riconosciuti. Uno lo riconoscono, per esempio, perché c'aveva la giacchetta da ferroviere, questo era ferroviere, e lo riconoscono proprio per questa giacchetta che portava addosso pure là sotto. Un altro lo riconoscono per un dente rotto, dice che questo qua una sera a cena per favo spiritoso aveva cercato di rompere una noce col dente, poi gli si rompe il dente, gli si ruppe, e per questo dente rotto di non ce lo riconoscono. Dico sta bassetta, quasi tutti sono stati riconosciuti, Il colonnello Montezemolo, quello che un anno prima faceva il traduttore a Feltre per Hitler e Mussolini, il colonnello Montezemolo poi diventò il capo della giunta militare clandestina, lui pure morì lì all'Ardiatina, e lui lo riconobbero anche per un mozzicone di matita che c'aveva in saccoccia. Dico la bassetta, quasi tutti sono stati riconosciuti, giusto una decina non l'hanno riconosciuti. Adesso, dico la bassetta, Bisognerebbe pure raccontare la storia di questi qua che morirono. Perché quando tu lo vai a chiedere, chiedi secondo te chi è che è stato ammazzato quel giorno lì alle Ardeatine, la gente ti risponde ebrei. E effettivamente dei ebrei ce ne stavano, erano pure tanti. Ma non erano tutti ebrei, però, dico io. Beh, dice la gente, ebrei e comunisti, no? I tedeschi ce l'avevano contro il comunismo e contro gli ebrei, avranno ammazzato ebrei e comunisti. Difatti pure dei comunisti ce n'erano tanti alle Ardeatine. Ma non erano tutti o ebrei o comunisti. Dico, c'era pure qualcuno che non era né l'uno né l'altro. O qualcun altro che era tutto e due insieme. Che non è mica vietato che se uno è ebreo non può essere comunista e viceversa. Uno può essere pure un ebreo comunista. È possibile, no? In natura. Beh, dico insomma, la gente era tanta là, no? Ebrei, comunisti e tante altre persone. Mi dicono, vabbè, saranno morti i romani, no? Sta strage, questo eccidio dell'Ardeatina è strafatta a Roma, compiuta a Roma, saranno morti i romani. Invece no, perché la maggior parte di quelli ammazzati quel giorno lì, quel 24 marzo del 1944 all'Ardeatina, la maggior parte manco erano romani. Era gente che a Roma c'era appena arrivata, qualcuno c'era arrivato da un anno, due, tre, qualcuno da qualche mese, qualcuno da qualche giorno, qualcuno era appena arrivato a Roma da qualche minuto. C'era uno, si chiamava Antonio Pisino, classe 1917, detto Uccio. Uccio Pisino era pugliese, di Maglie. Questo qua era uno che era arrivato a Roma, faceva il partigiano, e stava nella borgata di mia madre, a Torpignattara, sulla Casilina, a Piazza della Maranella, imparava alle donne di borgata come si monta, smonta e utilizza un fucile mitragliatore. Capite? Questo Uccio Pisino era di Maglie, in Puglia, non era mica romano, e non era manco ebreo. Ma però mi sa che era comunista, perché sto Pisino mi sa che era comunista. Però c'era gente come Montezemolo, il colonnello Montezemolo, quello sicuro che non era né comunista, né romano e neanche ebreo. Oppure Ettore Ronconi, l'oste, che per caso era arrivato quel giorno lì a Via Rasella per portare il vino dei castelli romani di Genzano, del paese suo, alla fraschetta che sta ancora oggi lì aperta. E tutti quanti, Ettore Ronconi insieme a tutti gli altri, vennero ammazzati il giorno 24 marzo 1944 sulla Via Ardeatina. A Roma passano poco più di due mesi, marzo, aprile, maggio, all'inizio di giugno, la notte tra il 3 e il 4 giugno ci stanno due furgoni parcheggiati sotto via Tasso a Roma, al centro di Roma, due furgoni sotto il carcere nazista. In quei due furgoni ci stanno adesso tutti quelli che prima stavano nel carcere. I tedeschi l'hanno fatti scendere e questi qua l'hanno messi nei furgoni per portarseli via, perché i tedeschi quella notte lì stanno scappando da Roma. Ma uno di questi due camion, di questi due furgoni è rotto, è stato sabotato, così quelli che stanno là dentro si salvano la vita, si salverà la vita già come Carlo Salinari, quello che poi diventerà il grande italianista, no? Quello che ha scritto il libro, il Salinari, no? Che ci abbiamo studiato e penato per tanto tempo. Beh, il Salinari stava là dentro, quel camion là, e si salverà la vita. Ma l'altro camion, coi tedeschi, è sano e parte. Dentro ci stanno 14 antifascisti. E sto numero 14, dico la passetta, me lo ricordo, perché puta caso, coincidenza, destino, al 14° chilometro tra via Cassia, quel camion lì, pure quello si rompe. E quelli che stanno dentro, i 14 che stanno dentro, vengono fatti scendere e fucilati. E questo è conosciuto come eccidio della storta. Roma, 4 giugno 1944. Per me, arrivati al 4 giugno, la storia finisce, perché poi col 4 giugno c'è la liberazione di Roma, arrivano gli americani, i tedeschi se ne vanno via. Crepassetta mi dice, ma America un po', quando i tedeschi vanno via, dove vanno? Dico, sì, no, dove vanno andati? Dico, la guerra continua, ancora quasi un anno va avanti la guerra. Dico, i tedeschi stanno ancora in Italia, un po' più a nord. Ah, mi dice... E quando è finita la guerra, che è proprio finita la guerra, i tedeschi dove vanno? Dico, signore, dove vanno andati? Dico, in Germania. Che se ne vanno? In Giappone, in vacanza. Dico, vanno a casa loro. Dico, per quanto che i criminali, i tedeschi, voglio dire i nazisti, insomma, verranno condannati, fascisti e nazisti, a migliaia ne condanneranno. Per quanto c'è da dire pure che a migliaia ne scapperanno, e ne scapperanno tanti, soprattutto in Sud America scapperanno, dove poi in Sud America diventeranno molti di loro i maestri per i torturatori delle dittature locali, no? Quando uno ha imparato a fare bene una cosa, voglio dire, la può insegnare pure all'altro, c'è un curriculum. Gente per esempio come Erich Priebke, questo qui c'è avuto tutta una storia recente che si è riparlato tanto di Erich Priebke. Priebke era quello che teneva in mano la lista alle fosse ardeatine. E lui scapperà in Sud America, diventerà a Bariloche, un paesino del Sud America, dell'Argentina. A Bariloche Priebke diventa un salumiere. Dico, ma sono figura di questa bassetta? Uno che va a comprare prosciutto da Priebke. Mi dice la bassetta. Ma troppi ne sono scappati, sa? Mica solamente tedeschi, stranieri, mi dice la bassetta. Anche gente italiana, della borgata nostra, romana di Roma, mi dice la bassetta che conosceva uno che faceva l'ombrellaro, dice lei. Dice la bassetta, sto ombrellaro c'aveva certe mani, con queste mani questo ombrellaro sapeva riparare ogni cosa. Mica solamente l'ombrelli e le concoline, no? Dice la bassetta, sto ombrellaro riparava ogni cosa, porte, finestre, sermenti, idraulica, elettricità, termosifoni. Tant'è vero, mi dice la bassetta, che sto ombrellaro era stato nelle case di tutti i romani e a tutti quanti gli aveva riparato qualche cosa, una maniglia, una porta. porta, una finestra, che dice che questo qui ormai, dice Stombrellaro, Stombrellaro sapeva a memoria le case di tutti i romani, tant'è vero, mi dice la Bassetta, che quando arrivò il tempo che gli ebrei non si potevano più tanto far vedere in giro per le strade, si dovevano nascondere tutti quanti, dice che Stombrellaro sapeva dove stavano nascosti tutti, tant'è vero, mi dice la Bassetta, che l'ombrellaro andava dall'ebreo nascosto, soprattutto se c'aveva qualche lira da parte, l'ombrellaro andava dall'ebreo e gli diceva, vi ricordate di me, sono l'ombrellaro, quante volte ho riparato la goccia del rubinetto che perdeva, era una tortura, non si fermava mai una cosa cinese. Io mi ricordo di voi, dice per ombrellaro. Voi siete un ebreo, ci avete un bel tavolo, sei sedie, una cosa francese, Luigi XV-16, quella roba là. Datela a me, diceva l'ombrellaro all'ebreo. Io ve lo vendo, vi faccio guadagnare i quadrini, il danaro. Certo era, mi dice la Bassetta, che se l'ombrellaro all'ebreo gli dava una lira, era perché lui ombrellaro ne aveva guadagnare 10 le lire, se non 100. Che tutti gli dicevano all'ombrellaro, ombrellà sei una carogna, un bastardo, tu guadagni sul sangue della povera gente. Diceva l'ombrellaro, sangue e sangue, carogna e carogna. Se fa presto a di carogna, con gli ebrei si rischia la vita, se io rischio devo guarambiare. Così rischiando, mi dice la Bassetta, l'ombrellaro diventò ricco. E quando arrivarono gli americani, l'ombrellaro sparì come l'aria trasparente, nessuno lo vide più. Poco tempo fa, mi dice la Bassetta, sa, una vicina di casa mia dice che è convinta che l'ha incontrato al quarto miglio. Sai quella zona di Roma, quella un po' borgata, un po' villette, no? Dice che si è fatta una villa di tre piani, tripli servizi, una macchina americana, lunga da qua fino alla giù, una cosa americana. Mentre io, mi dice la Bassetta, io in quanto ad abitazione mia personale sono sempre stata precaria. Lo vedi che ancora oggi vado cercando casa in affitto? Noi, mi dice la Bassetta, famiglia nostra, dice la Bassetta, quando eravamo ragazzini vivevamo a Trastevere, Trestevere lo chiamano i romani, Trastevere. La casa era piccola, puzzava, certi sorci lunghi così, bagarozzi proprio lunghi. Poi arrivò Mussolini, mi dice la Bassetta, e ci cacciarono via di casa. Dissero che dovevamo andare a vivere a Prima Valle. Mio padre disse, Prima Valle? Prima Valle c'è sta il fango, c'è vivono i rospi, erano occhie, noi persone. Così allora noi andammo a vivere in subaffitto, a Testaccio. La casa era piccola, ci avevamo solamente una stanza con uso cucina, eravamo in otto, ci stava manco l'aria per respirare, dormiamo in piedi. Così allora, per via che mio padre ci aveva la grande invalidità permanente, il governo gli dette una casa popolare, alla Garbatella, appena costruita, alla città giardino. Quinto piano, senza ascensore, a via Giovannivoli 24. Oh. Mi padre la casa gliel'avevano data proprio perché era zoppo, c'aveva l'invalidità, stavamo al quinto piano senza ascensore, come ci arrivavamo? Capito? Tutti dicevano andate a piedi, andiamo a piedi. Mi padre non c'era un piede, quali piedi? I piedi di qualcun altro? Così allora siamo andati a vivere al Quadraro. Sai, il Quadraro era proprio estrema periferia a quel tempo. Al Quadraro nuovo, poi dove stavamo noi, era talmente nuovo che ci stavamo solamente noi, nuovo solamente per noi, capito? E poi mio padre era una brava persona, dice la Bassetta. Mio padre, quando era la festa mia, che io sono nato in inverno, mi faceva sempre la stessa cosa di regalo, un arancio incartato, ma per bene. E poi le candeline del compleanno, quelle non mancavano mai. Certo, le candeline, mica c'è stava la torta che hai mai vista, non erano mica tempi che si potevano comprare torte. Però le candeline c'erano sempre, magari tutte le seconde e terza mano, che uno si doveva pure sbrigare a depresce e soffiarci sopra, sennò si sconsumavano da sole. Però le candeline c'erano sempre. Poi arrivò un anno, dice la Bassetta, durante la guerra mio padre mi portò il regalo, un arancio incartato, però senza più manche le candele. Che io dissi, che papà, e che madonna, dico tutti gli anni già stavamo stringati, quest'anno manco più le candele portato. E beh, disse mio padre, che non l'hai sentito, non l'hai inteso quello che ha detto Mussolini, il duce degli italiani, che tutti i popoli al mondo odiano l'Italia, i francesi, gli americani, gli inglesi, i russi, ma più di tutti quanti odiano l'Italia gli esquimesi, sì? Dice che gli esquimesi hanno fatto il discorso e hanno detto che se tutti i popoli facevano le sanzioni all'Italia pure loro le facevano, hanno detto che non ci danno più il grasso da foca per fare candeline dei compleanni. Mussolini gli ha detto che lui se ne frega, ma noi mica se ne potevamo fregare più di tanto, sa? I soldi per comprarle, ste candele esquimesi non ce l'avevo. Vedrai, mi disse mio padre, quando è finita la guerra torneranno tante cose belle con la pace, tornerà l'olio, il burro, tornerà la farina bianca fina fina e tornerà pure sto grasso esquimese per fare candrine dei compleanni. Che io mi dice la Bassetta, lei si deve figurare, era una ragazzina, pensavo, dico, quando è finita la guerra, altro che il burro e l'olio, pensavo io, mi dice la Bassetta, quando è finita la guerra di candele dei compleanni me ne voglio mettere una per ogni giorno che è passato, no per ogni anno, fa un platò di candele così soffia per una settimana. Poi mio padre morì, che la guerra ancora non era finita, e noi traslocammo di casa, andammo a vivere alla Caffarella, lì c'era l'aria buona, ma la casa crollava a pezzi da sola, così traslocammo ancora, andammo sempre più in periferia, oh, mi dice la Bassetta, tutte le sante volte che noi traslocavamo di casa sempre più in periferia, andavamo a finire, sempre Roma era, sempre trattasi della città di Roma, dell'urbe, ma noi sempre più a casa del diavolo, stavamo sempre più in periferia, capito? Mai una volta che uno tornava verso Piazza delle Spagne, Piazza Ravona, Piazza Vittorio, capito? Sempre più in periferia finivamo, perché Roma è fatta così. Roma è fatta a sta maniera. Più va avanti il tempo e più costruiscono cose, case, strade, chiese, quartieri, palazzi. E la periferia della città pian piano si allarga. Quando ero ragazzino io mi dicevo, la Bassetta San Giovanni era estrema periferia. Ma adesso è diventata il centro di Roma, ci fanno i concerti in televisione, ma che scherziamo? La città si è ingrandita, strada dopo strada, casa dopo casa, quartiere dopo quartiere. E la periferia si è allontanata dal centro, allontanandosi, capite? Come un treno. E noi siamo montati su sto treno dalla periferia, ma non scendiamo più, andiamo sempre più lontano. Sempre in periferia siamo stati e sempre in periferia resteremo, mi dice la Bassetta. Certo, fino a qua nella periferia di Roma non arriva al centro dei Tunisi, che arriva a fare a spesa a Piazza Vittorio dopo piare l'elicottero invece che il tram. Ti dico sta Bassetta, dico, ma lo sapete che la maggior parte delle strade dedicate ai morti dell'Ardiatina stanno proprio a Spinaceto? Dico che Spinaceto ha voglia, dico, se sta fuori del raccordo anulare e fuori dal centro da Roma. Dico, poi oltre alle strade ci stanno anche le targhe commemorative. Dico, certo che se le targhe le mette, che ne so, l'esercito o il comune o lo Stato, il governo, c'è scritto caduto l'eroe della patria. Se le mette un cugino, un parente, uno del condominio, c'è scritto Giovanni, Pasquale, Antonio, mio fratello, mio cugino. Dico, ma a prescindere da chi le mette queste targhe, dico, se lì c'è una targa appiccicata a quel muro, a quell'angolo della strada, in quel cortile, vuol dire che qualcosa là sotto è successo. Però dico, se nessuno te lo dice, quello che è successo, ma tu che ne sai? Magari vedi le targhe, come quelle che stanno scritte pure vicino a casa mia, in borgata. Vedi una data, 17 aprile 1944, una riga sottoscritta. Che ne sai quello che è successo quel giorno? Te pensi che quella magari è una storia che a raccontarla ci vuole un minuto, magari anche di meno. Dico invece, quando uno le sente dall'inizio alla fine, queste storie pare che incominciano quel giorno e non sono finite mai. Soprattutto quando te le raccontano le donne. No, perché in genere sono le donne che se le ricordano queste cose. Quelle che ti dicono... Ma lo sai che la domenica mattina c'era l'autobus del comune? Quello era messo a disposizione gratuito, l'autobus. Andavi sopra l'autobus e ci portavano gratuitamente tutte quante le fosse ardeatine. Stavamo lì, dice, che c'erano le madri che dicevano nessuno può sapere qual è il dolore di una madre. E le mogli. Nessuno può sapere qual è il dolore di una moglie. Poi arrivavi lì alle fosse ardeatine, sai, al sagrario, al santuario, lì insomma, arrivavi e ci stavano tutti i ragazzini, le ragazzine che giocavano insieme sul brecciolino. Poi, pure ste ragazzine, quando crescevano, diventavano donne, si andavano a sposare. Ma nel mentre che le altre spose normali, solite, di Roma, poi dopo si andavano a fare le fotografie, al Gianicolo, col cavallo, a Piazza Navona, a Piazza di Spagna. Invece queste donne qua, le figlie di quelli dell'Ardeatina, andavano col bouquet dei fiori a portare i fiori sulla tomba del padre lì alle fosse Ardeatine. E allora lo vedi che questa è una storia strana, una storia che uno come la fa a raccontarla? Sa, a volte... Alla fine della guerra ci stavano ancora le file ai negozi, no? Fuori dai negozi certe file non si finiva mai. Pure se era finita la guerra si doveva sempre aspettare pacificamente in fila. Alle volte stavi lì in fila che a noi ci dicevano prego, passi avanti, che deve fare? Deve andare a comprare un po' di pane, passi avanti, vai a comprare sto pane. Perché tu pensavi, vedi però, la gente, mo che è finito quel fabbisogno proprio impellente della guerra, mo adesso sono tornate ad essere persone gentili, ci fanno pure passare avanti. Invece no. Era che ti facevano passare avanti perché prima passavi, prima prendevi il pane e prima te ne andavi via. Perché la gente, la faccia nostra, non la voleva più vedere. Perché è finita la guerra. Della guerra le persone se ne volevano scordare. La guerra è un argomento che non interessa alla gente. E quindi ci vedevano a noi, con le storie nostre, con le facce nostre, e la guerra gliela ricordavamo troppo. Per cui si dicevano, prego, passi avanti alla fila, va, se sbrighi, per prendere questo pezzo di pane che prima se lo prende e prima se ne va via. Che a volte uno ci pensava pure, diceva, oh, ma mio padre, ma che voleva fare? Il partigiano, l'eroe, il rivoluzionario. Dico, ma te potevi stare zitto? Te mettevi tanto tranquillo, buono buono, te mettevi la camicia nera, come tutti gli altri fascisti, te andavi a Piazza Venezia a sbattere mani a quell'imbecille di Mussolini, facevi il pecorone, il leccapiedi, va bene, però almeno salvavi la vita e la famiglia. Invece poi magari uno lo viene pure a sapere, che pure chi ha fatto il pecorone con Mussolini magari è morto lo stesso. Allora lo vedi che questa è una storia strana. Una storia che uno come la fa a raccontarla? Sa, mio nonno, che lavorava al cinema Iris, odierno cinema Gioiello, su Ravino Montana, Porta Pia, mio nonno tutte le volte che si presentava diceva nome, cognome e aggiungeva combattente, perché mio nonno aveva fatto la prima grande guerra mondiale, quella che abbiamo vinto, diceva mio nonno, come se l'aveva vinta lui da solo la guerra mondiale contro tutti, capito? E tutti volevano sentire le storie di mio nonno combattente della prima grande guerra mondiale. Dite, gli dicevano, dite. E mio nonno stava lì che raccontava. Del Piave che mormorava calmo e placido a passaggio, raccontava, no? Dell'Alpino, dell'Alpino con la piuma, del bersagliere con tutte le piume in testa, raccontava dell'austriaco che aveva parlato con mio nonno. Dico, ma mio nonno era di Roma, di Trastevere, parlava anche italiano, ma aveva parlato con austriaco, chissà in che lingua gli aveva parlato. E tutti le volevano sentire. Però le storie della trincea, della grande guerra mondiale, quella che abbiamo vinto, la storia di mio nonno, mentre invece le storie nostre nessuno le vuole sentire. Allora prego, passi avanti Lei che cosa deve fare? Deve andare a fare un'impegnativa dal medico, dal dottore. Passi avanti, non stia ad aspettare la fila, il turno suo. Passi avanti alla fila, va. Prenda questa impegnativa. E lei che deve fare? Stiamo alla posta, deve andare a pagare la bolletta del gas, della corrente elettrica, della monnezza. Vadi a pagare questa corrente elettrica, sta monnezza, sto gas. Passi avanti alla fila, sennò qua non affitta questa fila che è lunga. E lei che deve fare? Deve prendere la pagnotta e pane? Allora vai a prendere questa pagnotta e pane, va, che prima la prende e prima se ne va via. E prima si porta via pure sta faccia sua, insieme a questa pagnotta di pane. Ma ora, per queste anime segnate dal crepuscolo, per questo bivacco di intimiditi passeggeri, d'improvviso ogni interna luce, ogni atto di coscienza, sembra cosa di ieri. Nemico è oggi a questa donna che culla la sua creatura, a questi neri contadini che non ne sanno nulla, chi muore perché sia salva in altre madri, in altre creature la loro libertà, chi muore perché arda in altri servi, in altri contadini, la loro sete, anche se bastarda, di giustizia, gli è nemico che straccia la bandiera ormai rossa di assassini, e gli è nemico chi, fedele, dei bianchi assassini la difende. Gli è nemico il padrone che spera la loro resa e il compagno che pretende che lottino in una fede che ormai è negazione della fede. Gli è nemico chi rende grazie a Dio per la reazione del vecchio popolo e gli è nemico chi perdona il sangue in nome del nuovo popolo. Restituito è così, in un giorno di sangue, il mondo a un tempo che pareva finito. La luce che piove su queste anime è quella ancora del vecchio meridione. L'anima di questa terra è il vecchio fango. Se misuri nel mondo, in cuore, la delusione, senti ormai che essa non conduce a nuova aridità, ma a vecchia passione. Passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione, passione.